America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Oggi, martedì 11 settembre, undicesimo anniversario dell'attacco all'America, l'attacco alle Torri Gemelle, l'attacco al Pentagono, l'attacco in Pennsylvania. Fra poco cominceranno le cerimonie, esattamente fra un'ora, alle 8.46, è stato il momento del primo attacco. Il presidente Obama e la First Lady Michelle osserveranno un minuto di silenzio in onore delle vittime alla Casa Bianca. Alle 9.30 Barack e Michelle andranno al Pentagono, è stato il momento in cui il Pentagono fu colpito. Lo ricorderete, un attacco coordinato, un attacco senza precedenti, un attacco che non solo ha fatto storia per quel che è successo in America quel giorno, ma perché da quell'attacco in cui l'America era all'apice della sua potenza sono poi nate due guerre. Una di queste guerre è ancora aperta, la guerra in Afghanistan. L'America dunque ancora soffre, ancora ricorda, ci sono ancora i morti che tornano a casa. L'idea è che queste guerre non soltanto servono ad attaccare il nemico, ma servono a tenere fuori dall'America la possibilità di attacchi terroristici, e devo dire che finora, in effetti, in questi 11 anni, i tentativi di attacchi sono stati sventati. Ci sarà una cerimonia di commemorazione qui a New York, al Memorial dell'11 settembre, Ground Zero, il sindaco Bloomberg, ci saranno i rappresentanti dei parenti delle vittime, non ci saranno politici, Bloomberg non li ha voluti, una cerimonia che avrà 6 momenti di pausa, 2 per ricordare il momento in cui gli aerei hanno colpito ognuna delle due torri, 2 per ricordare il momento del crollo, una pausa nel momento in cui il Pentagono è stato colpito ed uno nel momento in cui il volo 93 si è schiantato al suolo in un campo della Pennsylvania. Poi al tramonto, là dove sorgevano le Torri Gemelle, ci sarà una illuminazione con 2 colonne di luce che saranno spente poi all'alba del 12 settembre. Dunque l'America continua a partecipare, continua a vivere queste cerimonie, certo con partecipazione, ma devo dire purtroppo anche con un po' di acrimonia. Michael Bloomberg parla dell'11 settembre, avrei potuto farvi sentire anche Chris Christie, il governatore del New Jersey, Andrew Cuomo, in questi ultimi giorni hanno fatto molte dichiarazioni. Qual è il problema? Il problema è che c'è una disputa fra il sindaco di New York, Michael Bloomberg, e i due governatori, Andrew Cuomo di New York, Chris Christie del New Jersey. Ve lo ricordo, Chris Christie è repubblicano, ha parlato alla convention di Tampa, Andrew Cuomo è democratico, eppure i due governatori si trovano allineati insieme contro Mike Bloomberg, perché non si capisce chi deve pagare il museo dedicato ai caduti, dedicato a quell'attacco, un museo che è stato già costruito a Ground Zero, che deve essere terminato, c'è circa $1 miliardo che manca, c'è stata la fondazione di Bloomberg che ha già raccolto $450 milioni, i due stati sono in difficoltà finanziaria, non vogliono coprire certe spese, insomma si litiga. Il risultato qual è? È che il museo che doveva inaugurarsi, doveva aprirsi in occasione di questo undicesimo anniversario, non si è aperto, non si aprirà, e purtroppo sembra che non si aprirà neppure per il prossimo anniversario. Io davvero mi auguro che questa questione sia risolta. Devo dire, non è bello vedere autorità diverse che litigano, che non riescono a trovare un accordo su una cosa che poi appartiene non soltanto alla città, non soltanto ai due stati, ma appartiene all'America, appartiene un po' a tutti noi, perché noi tutti abbiamo vissuto quel momento con straordinaria partecipazione, lo ricordiamo con straordinaria emozione, devo dire io lo ricordo davvero con grande emozione, mi trovavo là sotto quando il secondo aereo colpì, mi trovavo là sotto quando c'erano le ondate, un fiume di umanità che scappava da queste due torri. We've blunted the Taliban's momentum in Afghanistan and in 2014 our longest war will be over. Abbiamo sentito Barack Obama, il presidente Obama, alla convention di Charlotte, ha ricordato la guerra in Afghanistan, dall'attacco dell'11 settembre ci sono state poi due guerre, la guerra in Iraq che si è chiusa l'anno scorso, la guerra in Afghanistan che resta aperta, dovrebbe chiudersi nel 2014, ma ci sono ancora giovani al fronte, ci sono ancora giovani che muoiono. Ho con me ai microfoni di America 24 Fraser Ottanelli, docente di storia americana all'Università di South Florida

Ed eccoci alla canzone del giorno, undicesimo anniversario dell'attacco all'America, un attacco che ha cambiato il corso della storia. Dunque vorrei dedicare la canzone di oggi alle vittime e ai parenti delle vittime che hanno sofferto in prima persona di quell'attacco, ai soldati caduti al fronte, e lo faccio con questa canzone di Leonard Cohen composta in memoria dell'11 settembre del 2001, On That Day. Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.